Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Senza voler rubare il mestiere a Nicola Filippone, c'è un anniversario che oggi assume un particolare significato. Esattamente un anno fa, il 22 giugno 2008, l'Italia pareggiava contro la Spagna agli europei nel quarto di finale, perdendo soltanto ai calci di rigore, e Roberto Donadoni chiudeva così la sua avventura da commissario tecnico. Ebbene, poiché il tempo ogni tanto è anche galantuomo, un anno dopo la Spagna ha sempre soltanto vinto 15 partite su 15 dopo quel pareggio con l'Italia, mentre l'Italia è nelle condizioni miserande in cui l'abbiamo tutti quanti vista ieri sera. Dico tutti quanti perché il dato d'ascolto è di oltre 10 milioni di spettatori, che in una domenica d'estate fa uno share del 45 e passa per cento. Sono ovviamente in corso disamine di ogni genere su questo rovescio, che ha pochi precedenti a parer mio nella storia del calcio italiano. Io sinceramente, sarà anche un problema di memoria e di neuroni, ma non ricordo un primo tempo in cui l'Italia sia stata un tempo solo in cui l'Italia è stata travolta a quella maniera, con 3 gol subiti in 8 minuti, ma che venivano già dopo una serie molto lunga di occasioni grosse degli avversari, tra cui 2 pali o traverse o legni, sia pure per casuali che fossero, senza nessuna vera controffensiva degna di questo nome, senza una difesa organizzata, un centrocampo che mordesse, senza nemmeno un tentativo serio, vero, di contropiede. Cioè una disfatta in piena regola. Ora, è ovvio che in casi del genere tocca al commissario tecnico spiegare l'accaduto e possibilmente proiettare, visto che non si trattava fortunatamente di una manifestazione di quelle che contano, cioè non era né un mondiale né un europeo, spiegare quali possano essere le impostazioni e le valutazioni per il futuro. Donadoni un anno fa non ebbe questa opportunità. Sentiamo Lippi. Ci siamo presentati, devo dire sinceramente, in una condizione fisica non brillantissima per vari motivi, e poi dopo c'è sempre stata, in ogni partita c'è sempre stata la reazione, no? la voglia di reagire, l'atteggiamento giusto, perché questa è una squadra che ha un'anima, ha un cuore, però contro certi avversari non basta. Non abbiamo fatto male, un po' poco. Evidentemente in questo momento siamo in grado di fare questo, in questo momento. Evidentemente, probabilmente il nostro limite attuale, non credo che sia un limite definitivo, ma attualmente probabilmente, poi tutti vogliono giovani. I giovani hanno bisogno di inserirsi gradatamente e poi soprattutto hanno bisogno di essere inseriti in una squadra che funziona abbastanza bene, che ha buoni livelli. Noi abbiamo, purtroppo, mi dispiace perché ci tenevo a fare una confederation diversa, però l'abbiamo fatta non bene. Poi dopo le circostanze potevano anche farci passare il turno, ma insomma oramai erano 3 partite e rimaneva questa impressione. Meglio così, infatti, si sarebbe prolungata, l'ha detto chiaramente Buffon, un'agonia che era semplicemente sportiva, ovviamente, ma che era però penosa la sua parte. E il fatto che alla fine la seconda qualificata del girone, che se la giocherà in semifinale con la Spagna, siano gli Stati Uniti, dà un'idea della pochezza, veramente, della mediocrità di questa Italia. Poi arriveranno i vostri commenti, perché questo è un lunedì a tutti gli effetti, quindi anche per la completezza e lo spazio che ci sarà per gli interventi vostri, però io continuerei a seguire e ad ascoltare alcune disamine dei giocatori dopo questa sconfitta. Il capitano, intanto, intervistato dalla Rai subito dopo la partita di ieri sera, Cannavaro. Eravamo venuti qui per provare alcune cose, eravamo venuti qui per far fare delle esperienze a dei ragazzi, però questa Confederation non ci deve far perdere di vista il nostro obiettivo, quello della qualificazione mondiale, e poi vediamo l'anno prossimo. Loro ogni giorno sfornano dei giocatori, però comunque noi dobbiamo ricominciare a pensare a noi stessi, dobbiamo pensare alle nostre caratteristiche e portarle avanti. Non è che adesso possiamo parlare di rinnovamento o cose strane, bisogna aspettare quello che dirà il campionato l'anno prossimo, poi il mister farà le sue scelte. Beh, insomma, tra le sue scelte potrebbe anche esserci quella che riguarda Cannavaro. Ieri sera Cannavaro ha tagliato il traguardo delle 126 presenze in nazionale e ha eguagliato il primato di Maldini. Se non ricordo male, fu molto triste l'ultima partita di Maldini, perché coincise in Corea con l'eliminazione nei quarti di finale della Corea stessa. Non si può dire che quella di Cannavaro ieri sera sia stata più gloriosa, anzi sul piano della prestazione individuale mi pare sia stata tra le più imbarazzanti. Io metterei quella di Toni e tutto sommato anche quella di Zambrotta, al di là di un grande impegno, la metterei tra le più tra le meno, insomma, tra le meno difendibili, ecco. E ripeto, non è una questione di impegno, ma è una questione di capolinea che si avvicina, se già non è arrivato. Dopo Cannavaro, ecco appunto, sentiamone un altro, sentiamo tutte e due, questi altri due giocatori che forse potrebbero avere anche chiuso, credo, ieri sera in Sudafrica la loro avventura in maglia azzurra. Toni. È successo che abbiamo fatto una figuraccia. Purtroppo quando giochiamo contro queste formazioni così forti noi dobbiamo essere al 100%, e penso che purtroppo è tutta la Confederation Cup che magari ci sono molti giocatori che non erano al meglio della condizione. Quando non riesci a fare un passo in più, non riesci a fare qualcosa in più, può diventare anche mentale, però sta di fatto che sicuramente gli altri stavano meglio di noi fisicamente, e l'unica cosa, dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche, cercare di ripresentarsi in nazionale sicuramente in uno stato di forma migliore per cercare di mettere in difficoltà il mister. Sempre fare sta differenza penso che non ha senso. Noi siamo una nazionale, penso che c'erano 10 giocatori nuovi rispetto al mondiale. Poi se uno vuole sempre fare la differenza, penso che i problemi di questa nazionale non siano tra quelli del mondiale, i nuovi o una rinnovazione. Penso che dobbiamo cercare di tornare con quella mentalità vincente che avevamo a Berlino, essere tutti tosti e essere tutti al 100% fisicamente. Poi può arrivare il giovane, il vecchio, penso che conta poco. Fin qui Toni. Io ho anche avuto l'impressione che ha aumentato l'avvilimento in chiave azzurra che il Brasile nel secondo tempo non abbia affatto infierito. Credo anzi che il Brasile si sia posto proprio questo tipo di problema, perché è chiaro che punteggi netti in queste sfide tra squadre tra le più forti al mondo poi comportano sempre delle conseguenze, nel senso che la volta dopo che ci si incrocia, dovunque sia, più una squadra ha perso in maniera netta e più è animata da voglia di rivincita. Quindi il Brasile, che da questo punto di vista conosce bene l'Italia, non aveva alcun interesse ad infierire, e mi pare che lo abbia fatto con molta signorilità, nel senso che due o tre giochetti di prestigio che qualcuno tipo Lucio per esempio, o forse anche Robinho, si potevano risparmiare da una parte, ma in compenso molti altri giocatori che hanno smesso di affondare, a cominciare da Kakà, che mi sembra si sia signorilmente astenuto dal passeggiare tra le macerie, no? della difesa e del centrocampo italiano. Ci sono già molti ascoltatori prenotati, volevo ancora dar conto della sentenza attesa dalla commissione disciplinare dell'UEFA a proposito di Balotelli, che se l'è cavata per il suo ennesimo colpo di testa nel senso non agonistico, in occasione della partita con la Svezia, se l'è cavata, dicevo, con una sola giornata di squalifica. E quindi dopo la partita contro la Bielorussia, che a questo punto dovrebbe essere quasi una formalità per la qualificazione alla fase successiva, Balotelli potrà tornare a disposizione di Casiraghi. Fabio ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Niente, volevo chiedere due cose. Intanto un commento sull'Italia, che credo sia superfluo, perché credo che noi tecnicamente, bisogna anche essere onesti, siamo inferiori ai brasiliani, quindi oltre che fisicamente anche tecnicamente c'erano superiori. Però credo che il fatto adesso che in Italia ci sia questa crisi e quindi non riusciamo più a comprare certi giocatori, speriamo che riusciamo a valorizzare magari qualcosa a casa nostra, perché credo che anche il fatto di non avere molti giocatori da poter convocare, perché alla fine i giocatori sono sempre quelli che dobbiamo portare in nazionale perché non abbiamo grossi ricambi, spero che questi problemi di crisi riescano a tirare sui settori giovanili e tirare su magari qualche giovane che fa un paio d'anni riesca a farci fare qualche salto di qualità. E dopo volevo fare un intervento da padovano e fare i complimenti al presidente, all'allenatore e ai giocatori del Padova che ieri ci hanno regalato una grande emozione tornando in Serie B dopo 11 anni. La ringrazio e arrivederci. Grazie a lei Fabio. Sì, su questo argomento si è soffermato anche Lippi stamane in una conferenza stampa successiva di cui non abbiamo ancora i riscontri vocali, ma che o avremo più tardi oppure ascolteremo domani. Anticipata dall'Ansa, grosso modo questo concetto è: c'è una crisi tecnica del calcio italiano. Se è vero che, ha detto Lippi, ogni giorno leggo che se ne va Kakà, che Pirlo è cedibile, che Maicon vuole andare via, e tutto questo dà una sensazione di impoverimento. Però è anche vero che insomma, è una riflessione che si presta a una doppia lettura questa, perché se davvero vanno via degli stranieri di primo piano, come il commissario tecnico dice, succede quello che lei invece ha sottolineato, cioè si aprono dei posti di prestigio, dei posti di lavoro di prestigio per giocatori nostrani, per giovani nostrani che quindi hanno la possibilità di maturare più velocemente, di fare esperienze ad alto livello più significative in un campionato impoverito, questo sì, ma in ruoli e con responsabilità superiori a quelle del recente passato. Questo mi sembra un fenomeno positivo, non negativo, come mi pare lo legga Lippi da questa dichiarazione, ammesso che poi Lippi sia riuscito a spiegarsi oppure sia stato ben compreso da questo punto di vista. Da Ferrara, Vincenzo, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, niente, la figura che abbiamo visto ieri l'abbiamo vista tutti. Volevo chiederle, magari inserire i giovani dell'Under 21, adesso hanno finito il ciclo dell'Europeo, provare a inserire i giovani dell'Under 21 nella prima squadra, non so per il suo parere. Sì, anche lì, cioè io qui credo che Lippi poi non abbia, ma Lippi come chiunque altro, non abbia tutti i torti, piano con i giovani, perché piano per il rischio di bruciarli, ci vuole, lui ha detto ieri sera a caldo, ci vuole comunque un po' d'esperienza per partite di questo livello e per avversari come il Brasile. Su questo direi che tutti i torti non li ha. Quindi dentro una nuova linea al gran completo direi proprio di no, perché vorrebbe dire mandare a massacro una generazione che invece, dato che ha molte individualità interessanti, va tutelata nel senso di promuoverla poco alla volta, nel senso di inserirla poco alla volta. Il problema grosso, secondo me, è che mi pare di ricordare che Donadoni un processo di rinnovamento comunque rispetto al Mondiale l'avesse già avviato, e che questo processo poi si sia in buona parte interrotto con il ritorno di Lippi. Questo è stato forse il salto che ha complicato la vita e che ha portato al disastro di ieri. Altra dichiarazione di Lippi di stamane: non ho mai detto che questi sono i giocatori e con questi andremo al Mondiale. Quando le cose vanno male si prende atto e si adottano le misure. E poi aggiunge: quando sono tornato sulla panchina della nazionale ho cominciato un'opera di ricostruzione. C'erano i veterani, ho ritenuto fondamentale il loro apporto per la qualificazione. Ora c'è tanta chiarezza nella mia testa, mi sono reso conto di tante cose. Ecco, quella frase: quando sono tornato sulla panchina nazionale ho cominciato un'opera di ricostruzione, questa mi sembra una frase fastidiosa sinceramente, perché la ricostruzione è quella, i risultati li abbiamo visti ieri sera, no? Da una parte, e dall'altra non mi sembra che ci fossero macerie ai tempi in cui Donadoni, ripeto, è uscito dall'Europeo ed è stato esonerato avendo pareggiato con una squadra che poi ha vinto 15 partite di fila e che era reduce da non ricordo a sua volta allora che numero di vittorie consecutive. Ogni tanto quando ci si deve difendere, magari non si è abituati, si va un pochino oltre nella dialettica. Questa mi sembra una frase infelice. Lino da Pordenone, buongiorno. Pronto? Dica. Buongiorno, io volevo parlare della partita disastrosa che abbiamo visti tutti di ieri. È ora che Lippi, che aspettava al capolinea che il buon Donadoni andasse via, è ora che Lippi faccia la stessa cosa di Donadoni. Che il buon Abete lo prendi e con tutti i suoi scagnozzi di dietro che ha il buon Lippi che se ne vada a casa. Perché siamo stufi di vedere due partite, ma bruttissime, bruttissime. Gente che è in difesa come il buon Cannavaro cadono per terra. Ma da dove vengono questa gente? Ma da dove vengono? Ora basta, ora finirla. Lino, mi domando anche da dove venga lei comunque, perché poi ci sono dei limiti, eh? Cioè Cannavaro può essere un po' a capolinea della carriera. Da dove viene Cannavaro, se vuole le ripercorro velocemente l'albo d'oro di questo giocatore, che credo che un po' più di rispetto lo meriterebbe. Poi ci stanno le battute, ci stanno le valutazioni, però insomma, senza mai rinunciare al rispetto che l'impegno di un giocatore e la sua carriera merita. Un ascoltatore domanda: ma Santon si è dato malato per evitare di bruciarsi? Non lo so sinceramente, le notizie che arrivano da Sudafrica parlano di una condizione, insomma, parlano di qualche problema fisico che Santon aveva, ma e non sarà certamente un ragazzo a cui si apre la possibilità di debuttare in un torneo di quel genere e di giocare contro il Brasile a tirarsi indietro. È un'altra la scelta, se parliamo di cose di questo genere, che mi ha molto stupito. Cioè, si vedeva già a occhio nudo ieri sera che Iaquinta un problema l'aveva, anche perché diversamente è difficile una sostituzione entro la fine del primo tempo, no? Oltretutto è vero che Iaquinta stava facendo molto poco, ma è vero anche che da un lato era la terza partita consecutiva e Iaquinta è uno che in campo si spende, dall'altra non era quello il ruolo, il settore in cui l'Italia soffriva di più, anche se è vero che Maicon da quella parte infieriva. A fine partita poi Iaquinta ha detto: avevo la febbre a 38, ma Lippi mi ha chiesto di giocare, io non potevo dire di no. Ecco, questo secondo me è un altro dato abbastanza inquietante, perché perché non è che mancassero le alternative, no? A cominciare Giuseppe Rossi, che è entrato subito dopo e che tutti invece si aspettavano nella formazione iniziale. Io credo che per l'appunto queste difficoltà inattese non vorrei che avessero un pochino travolto Lippi in questa circostanza, al punto da indurlo a scelte come minimo meno razionali del solito. Enzo in linea da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Volevo commentare pochissimo la Confederations Cup. Per questi io ci trovo un corso e ricorso. Al mondiale dell'86 il Bearzot ripropose più o meno una squadra molto simile a quella che aveva vinto il mondiale 82. Ricorda molto male, se crede tra un po' le do la formazione esatta che fu eliminata dalla Francia nell'86 e che era completamente diversa da quella che ben più forte aveva vinto con la Germania alla finale dell'82. Perché dicevo, questo per fortuna allora che non è così, perché se ieri è successo così, diciamo che c'erano molti reduci, anche se Lippi dice che ci sono poi 13 giocatori diversi in questa squadra qua rispetto a quella del mondiale del 2006. La Confederation è arrivata un anno prima del mondiale a poter verificare se ci sono degli errori e c'è un anno di tempo per poterli correggere, tutto qua. No, ma certo, ma non tutti i mali vengono per nuocere. È ovvio che mentre una figura del genere a un mondiale avrebbe effetti ben diversi, una figura del genere a Confederation Cup di conseguenze ne ha certamente di minori. Certo, minori è un conto, non può comunque non averne, perché Lippi recentemente aveva anche festeggiato un primato di imbattibilità che era arrivato, non ricordo se a 31 o a 32 partite, comunque davvero tante, tra il pre e il post mondiale, cioè anche considerando, non contando l'intervallo in cui l'Italia poteva aver perso ma lui non c'entrava dopo che si era rimesso da campione del mondo. Adesso sono arrivate 3 sconfitte in 4 mesi, 5 mesi, una a Londra col Brasile, abbastanza netta, una con l'Egitto, ai limiti del credibile, 4 giorni fa, e quella di ieri sera da getto della spugna, no? Io credo che dopo quei 3 gol in 8 minuti a fine primo tempo, nel pugilato una volta, l'uomo d'angolo avrebbe gettato l'asciugamano sul ring per dire ci arrendiamo. Ora Lippi si era molto arrabbiato, e forse anche giustamente, per un'immagine poco rispettosa che era stata usata, che era quella delle bende, no? Delle mummie, e dicendo guardate che ogni tanto le mummie poi sanno anche lanciare le bende, beh, insomma, se la lanciava ieri sera al posto dell'asciugamano, credo che ci saremmo risparmiati un secondo tempo altrettanto penoso, nel senso, ripeto, che era palpabile la sensazione che da Kakà in avanti i brasiliani non volessero infierire. Ho sotto gli occhi la formazione di quella partita di Italia-Francia dell'86, giocarono Giovanni Galli e il titolare era Zoff, Bergomi, che in Spagna c'era ma non era titolare, subentrò a un certo punto, comunque non c'era più Gentile, Cabrini, quello c'era, Beppe Baresi, non c'era in Spagna, sostituito nel secondo tempo di Gennaro, non c'era in Spagna, Vierkovod, c'era in Spagna ma non giocò, Scirea, c'era, Bruno Conti, c'era, e poi De Napoli, Galderisi, Bagni, Altobelli. Se le sembra che nell'86 l'Italia sia andata fuori con la stessa squadra dell'82, forse non ci siamo, forse ce l'hanno raccontata in maniera, qualcuno ve l'ha raccontata in maniera un po' diversa in questi anni. Berzot fu troppo conservatore probabilmente nelle qualificazioni agli europei successivi al mondiale, e infatti per l'Europeo 84 l'Italia non si qualificò, ma da quel punto in poi fu costretto a cambiare, e essendo stato costretto a cambiare un po' in fretta e dovendo pescare in una generazione che al momento era ancora un po' immatura, non riuscì a completare quest'opera di rinnovamento. Speriamo non sia quello che accadrà a Lippi, anche se le avvisaglie ci sono. Emilio dalla provincia di Modena, buongiorno. Emilio, buongiorno. Emilio, il buongiorno glielo ridaremo dopo. Ermelindo dalla provincia di Avellino, buongiorno. Buongiorno a lei innanzitutto e grazie per la compagnia che ci fa quotidiana. Prego. Dica. Niente, lei ha centrato benissimo la situazione circa l'84 e poi l'86. È vero che Bagni e De Napoli, con cui ho giocato a calcio nelle primavere dell'Avellino, furono inseriti, ma furono inseriti dopo l'umiliante eliminazione dell'Europeo. Sì, umiliante, Melindo, piano, di umiliante ci fu una sconfitta in Cecoslovacchia alla fine. Io ricordo le belle battaglie con Romania e Cecoslovacchia in Italia e anche fuori. Cioè, umiliante è la sconfitta di ieri, io quelle là le ricordo un po' meno umilianti. Insomma, comunque niente, a me, siccome io 3 anni fa ho giocato a calcio così da ragazzino, però dicevo che c'era qualche cosa che non andava in alcune partite, mi prendeva qualche amico per pazzo, poi forse sono troppo pazzo, non ero. Dico questo, ma siamo convinti che quando convochiamo i calciatori nazionali non vada detto anche chi sia il procuratore? Perché, per esempio, mettiamo caso, domani mattina D'Agostino, che è un signor giocatore dell'Udinese, lo acquista un'altra società, ce lo troveremo in nazionale. De Sceglie, che è un signor terzino sinistra, mi pare che Mancini sulla fascia non ne abbiamo granché, giocherà in nazionale. Mi piacerebbe vedere una partita under 21 nazionale per vedere quale sia il risultato. C'è qualche cosa che non va in questo calcio, c'è qualche cosa che non va perché, se non ricordo male, il calcio è dato da questioni tecniche e questioni agonistiche. Quelle questioni agonistiche sono la volontà di corsa che un calciatore ha. E in questo momento ci sono troppe multinazionali in campo per l'Italia che forse non hanno troppa voglia di correre. Tutto qua. No, questa è una lettura che non condivido nella maniera più assoluta. Guardi, mi fa venire in mente una mail che ho ricevuto stamane, firmata Gaetano Righini, Reggio Emilia, che scrive: e se Lippi avesse fatto, anzi disfatto, tutto apposta, mi sembra l'unica analisi sensata di questa catastrofica trasferta in Sudafrica. Ora, io pensavo che fosse un paradosso, invece mi sembra l'unica analisi sensata. Perché portare così tanti reduci vecchi, stanchi, acciaccati, quando poteva essere una buona occasione per fare esperimenti? Magari li ha mandati al macello per chiarire a tutti, e cioè in primis a loro, che è tempo di farsi da parte. Non credo, è che non esiste che nello sport qualcuno perda apposta, no? Qualcuno non corra apposta. Queste sono le degenerazioni da bar sport che dopo sconfitte così nette poi arrivano per un fatto fisiologico. Andiamo a Palermo da Salvatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, a me ha fatto più impressione la sconfitta con l'Egitto e la vittoria, secondo me, stentata contro gli Stati Uniti, che la sconfitta col Brasile, perché oggi come oggi probabilmente il Brasile e la Spagna sono le squadre più forti in assoluto, quindi vincere con loro sarebbe stato per l'Italia attuale è abbastanza difficile. Salvatore, io mi scusi, la interrompo un istante. Io la seguo su questo, se parliamo di coefficiente di difficoltà, però se invece pensiamo a come l'Italia ha perso ieri sera al Brasile, sono meno d'accordo con lei. Giocare un Brasile in queste partite dove loro proprio hanno la gioia di giocare, si vede che si divertono, mamma mia, ridono, passettini, cose. Ma ridono anche perché davanti hanno, c'è poco da mordere, cioè c'è poco che li morda, questo è il problema. Lei crede che con la difesa del 2006 si sarebbero divertiti così ieri sera Robinho a fare fighetta e cosa? Magari quello no, però... Magari nel 2006 siamo stati bravi, Lippi è stato grande, insomma abbiamo vinto il mondiale, però non scordiamoci che abbiamo avuto davanti in autostrada con Australia e Ucraina. Ma questo è il problema, infatti sa dov'è che sono stati bravi nel 2006? A non trovarlo il Brasile, non era questo Brasile. Comunque nel dubbio né Brasile né Argentina si sono trovati in rotta di collisione. Questa è stata la bravura principale del 2006, perché quando superi un bel girone di qualificazione, niente da dire, ma da lì alla semifinale te la giochi con Australia e Ucraina, e già con l'Australia rischi quello che hai rischiato, beh insomma... È quello che si è detto in questi 3 anni, cioè se per caso prima o poi deve arrivare il conto della buona sorte, sarà meglio mettersi l'elmetto, perché non può che essere salato quel conto. Facciamo in tempo ad ascoltare ancora Vincenzo da Firenze. Buongiorno Caranzini. Senta, le volevo fare i complimenti perché a differenza non più piaggeria, a differenza di tanti tipo Cruciani, sa dire le cose nel modo giusto e anche rimettere al posto qualcuno che fa degli interventi strani. Allora, sì, però li accetto malvolentieri, perché lei ha fatto un riferimento sgradevole ad un bravo collega, e quindi questo sinceramente mi spiace dover ricambiare le sue carinerie con un cartellino giallo. Detto questo, credo che la diagnosi, riferimento, allora non facciamo nome, correggo, chiedo scusa, non era questa dai. Ma il concetto è questo, che un giornalista secondo me non deve alimentare il gossip, ma deve dare le informazioni necessarie perché tutti possano discutere meglio, ecco, questo era il senso. Spesso vedo invece da parte di certi giornalisti, senza fare nomi, l'alimentare il gossip senza dare le informazioni. Io credo che il dovere della stampa, sia nello sport che sia nella società, sia quello di mettere tutti in grado, dei giornalisti in modo particolare, di dare a tutti le informazioni comuni per poter poi fare una discussione e poter progredire sulla discussione. Va bene, non ho capito se la linea aveva problemi o meno, era disturbata. Vincenzo, grazie, il cartellino viene ritirato dopo le sue scuse, quindi tutto bene così. Noi giornalisti, sarebbe molto lungo il dibattito, ed è interminabile, sul nostro ruolo. È indubbio che in certi casi non sia semplice, e soprattutto in certe fasi storiche in cui finisce che facciamo da utilizzatori finali, come direbbe forse l'avvocato Ghedini. Grazie. Altre voci provenienti da Sudafrica, altri ascoltatori, altri commenti a una partita che certamente di strascichi rinascerà. Sentiamone qualcuno adesso di parte brasiliana, anche se espressi nella nostra lingua, e quindi sulla partita Maicon. No, non me l'aspettavo, perché anche la formazione era una formazione che magari riusciva a chiudere la fascia sinistra per fare un po' di difficoltà al mio lavoro, però non è andata così, ho lasciato un po' di libertà per fare il gioco per la faccia sinistra. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto il primo gol da quella parte lì, ma poi abbiamo fatto una bellissima gara. Non è che andare fuori di una competizione come la Federation Cup, non è che possiamo dire che è una squadra che non fa paura a nessuno. Sappiamo che l'Italia è una squadra fortissima, ha vinto il mondiale, l'ultimo mondiale, poi quando arriva quelle partite che devono fare meglio di ogni calciatore, sicuramente faranno bene. Anche fortunato Maicon ieri sera sul primo gol, nel senso che è diventato un assist per Luis Fabiano, un tiro che non ha veramente nessuna nessuna pretesa, e lì c'è stata una coproduzione, perché da un lato è stato bravissimo Luis Fabiano a controllare quel pallone che comunque era secco e a portarselo avanti benissimo con piedi di particolare sensibilità. Cannavaro è salito in ritardo e non è stata l'unico errore di una partita in cui, insomma, si è dimostrato che il tempo passa per tutti, perché non era tre anni fa due o tre movimenti sbagliati di ieri sera Cannavaro non li avrebbe proprio sbagliati mai. Sentiamo anche l'altro interista, uno degli altri protagonisti della partita, il portiere Julio César. Abbiamo fatto bene, una bella partita, abbiamo messo loro in difficoltà, abbiamo saputo approfittare meglio le opportunità che abbiamo avuto, ma comunque continua a essere una grandissima nazionale. Penso che alla fine stagione ci sono dei calciatori un po' stanchi, anche nella nostra nazionale, nella prima partita abbiamo sentito questa stanchezza, non è mica facile, però ci sono tanti campioni che giocano nella nazionale italiana e dobbiamo rispettare sempre. E questo è un commento signorile del portiere brasiliano Julio César, che si aspettava magari una serata, non dico di bombardamenti, ma una serata impegnativa, e invece se l'è proprio cavata con poco. Giorgio ha chiamato dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Ieri sera, quando perde la nazionale ci si rimane molto male, quando perde come ieri sera ci si rimane anche peggio. E allora ieri sera, così, con questo po' di dolore addosso, ho detto ascolto qualche intervista e ho sentito prima Cannavaro dire loro continuano a sfornare nuovi giocatori, poi dopo un po' ho sentito Boniek su un altro canale che diceva ma se ci fossero stati davanti Pazzini, Balotelli e un altro avrebbero fatto peggio di questi, punto di domanda. Io penso di sì. Penso di sì, perché quando non c'è una squadra, non creda che quando non c'è un telaio, quando il telaio è bolso, è fuori condizione, è approssimativo, insomma, è al capolinea come era quello di ieri sera, non c'è singolo che tenga, non c'è Balotelli, non c'è acqua fresca, dica lei chi vuole, non ce n'è, secondo me, e in questo io credo che solo in questo credo che abbia ragione Lippi. Cioè, attenzione adesso a bruciarli questi talenti, perché proprio perché sono talenti vanno protetti e vanno inseriti solo quando il telaio della squadra si riprende. Poi questo telaio può, anzi deve essere cambiato, deve essere ringiovanito, ma guai a buttare allo sbaraglio dei ragazzi che l'ha visto anche ieri sera. Nel secondo tempo, ripeto, sia pure con un Brasile che aveva, se non tirato il freno a mano, comunque alzato almeno il piede dell'acceleratore, le cose migliori le hanno certamente fatte Pepe, Rossi, forse anche lo stesso Dossena, ma erano cose marginali, cioè non c'era nulla che potesse fare molto più del solletico al Brasile, con tutto il rispetto per questi tre che hanno fatto delle cose buone. Vuol dire che numeri li hanno, perché sennò si sarebbero smarriti come i combattenti reduci, però può essere pericoloso esporli a figuracce. Mario, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottore. Mm-hmm. Niente, io volevo proprio continuare su questo discorso qua. Io, guardando la partita ieri sera, ho visto un Brasile pimpante, veloce e giovane, soprattutto giovane. Così la Spagna, noi abbiamo sicuramente degli elementi fortissimi di una certa età, dove l'esperienza fa anche la differenza, ma se non facciamo in modo che i nostri giovani giocatori possano giocare nel campionato e che possano giocare chiaramente per la squadra in cui devono essere sono chiamati a fare questo tipo di gioco, a esclusione di qualche straniero che chiaramente viene qui sia per prendere tanti soldi e anche per la... Pronto? Sì, pronto, dica. Ah, scusi, no, perché ho sentito che... Ecco, io pensavo appunto che noi giovani dobbiamo farli giocare. Se giocano, trovano tutta quella consapevolezza di essere squadra, di essere giocatori importanti e i ruoli. Uno, due, tre elementi, come diceva lei, dottore, è giusto, li abbiamo visti tutti, sono stati i più pimpanti. Chiaramente dobbiamo continuare a farli giocare questi giovani. Io vedo il Brasile, vedo la Spagna, forse qualche altra nazionale sta adoperando questo sistema. Immagino che che possa essere questo un percorso. Chiaramente non è immediato, ma dobbiamo lavorare per il futuro, ma qui i nostri giovani. Sì. Sì, sì, senza dimenticare che poi esistono le covate, eh? Cioè, questo indubbiamente. Allora, le covate brasiliane sono pressoché ininterrotte, no? Sono rarissimi i momenti della storia in cui il Brasile ha avuto poco. Certamente nel 78 in Argentina, abbastanza certamente nel 90 in Italia, ma insomma si ricordano proprio come eccezione, se no. Un Brasile scarso, un Brasile modesto, diciamo, è rarissimo da trovare. Per le altre nazioni si va a cicli, si va a momenti. Questo indubbiamente è un ciclo spagnolo, ma di talenti, poi possono vincere o non vincere, e mi pare che se la stiano cavando a vincere da qualche tempo a questa parte, ma è indubbio che hanno l'imbarazzo della scelta tra talenti e con molte alternative in ciascun reparto. E quindi questo è un momento loro. Noi non credo che siamo così in questa fase. Non abbiamo i valori che hanno loro, né a metà campo, né in attacco, e direi nemmeno in difesa. E quindi bisogna supplire con altre risorse, con una migliore organizzazione tattica, con più rabbia, con più grinta. Sono le solite risorse, sono le stesse che l'Italia di Donadoni ha messo in campo un anno fa, quando comunque si è presentata a quell'ottavo o quarto di finale, che non ricordo, quarto con la Spagna, in condizioni di inferiorità, ma è arrivata vicino a vincere. Poi non avrebbe meritato, ma è arrivata vicino a fargli il colpo, e comunque non ha perso. Questo è quando sei inferiore, te devi giocare così, non certamente come ieri sera. Renzo, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Appunto, volevo riallacciarmi a questo argomento qua. Quando Donadoni ha perso sembrava che fosse destinato, comunque, perché si vedeva Lippi come il toccasana. Quando ha deciso di tornare è stato fatto tornare. L'unica maniera per rimanere Donadoni ce l'aveva se avesse vinto l'europeo. E comunque confermo che si diceva appunto che il Donadoni era un signore, e quando lo diceva lei mi rendo conto che aveva perfettamente ragione. Magari ci credevo un po' meno, adesso è confermato quello che stava dicendo lei tempo fa con Donadoni, che effettivamente era un signore CT a quel punto. Adesso sinceramente è stato ricostruito troppo tardi e sinceramente abbiamo grossi problemi. Comunque mi è piaciuto vedere anche gli Stati Uniti giocare, perché hanno giocato fino alla fine molto bene e sono stati anche molto bravi, secondo me, a crederci fino in fondo, cosa che non abbiamo fatto fin dall'inizio, no, probabilmente. Grazie Renzo. Ci spostiamo a Napoli da Paolo, buongiorno. Buongiorno, Garanzini. Senta, d'accordo il discorso del telaio, ma proprio per questo motivo forse il telaio può essere integrato o aggiustato con giocatori non giovanissimi che rischierebbero di essere bruciati, ma sicuramente di qualità. E allora la domanda, che forse sarà un refrain: perché Cassano? No. Perché Lippi? Cosa c'ha Lippi contro Cassano? Io so che a lei Cassano non piace molto per via delle cosiddette cassanate, certo. Ma per il resto tecnicamente non ho ancora capito perché, quale fatture ambientale, ambientale. La porta a Cassano. Ambientale, Paolo, si è dato la risposta da solo, evidentemente ambientale. Sopportare evidentemente questo gruppo non vuole dover sopportare Cassano, avendo già avuto la prova in altre due occasioni che Cassano non è poi che ti cambi la vita, perché non cambiò la vita nel 2004 a Trapattoni e non cambiò la vita lo scorso anno a Donadoni. Quindi insomma, evidentemente il gioco non vale la candela, visto che poi si tratta di sopportarlo da un punto di vista, ripeto, ambientale. Questa è l'unica spiegazione, poi no, non è una scelta mia, sia ben chiaro, io le sto traducendo la scelta che arriva da Club Italia al momento, non è detto che sia definitiva, questo lo si vedrà andando avanti. Bella questa immagine che arriva da una mail firmata Stefano Varzella. La partita di ieri sera mi ha ricordato la terza sfida tra Monzon e Benvenuti, che ne pensa? Beh, insomma, bisogna avere qualche anno per ricordarla. Ma insomma fu una lotta davvero, davvero impari. E aggiunge Stefano, anche se a Benvenuti tutti eravamo e siamo ancora grati per le emozioni che ci regalò. È vero, infatti la gratitudine per il mondiale non si discute, ma ieri sera l'Italia era Benvenuti e il Brasile era Monzon. Stiamo per collegarci con Sudafrica, e allora sigla. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. Bentornato a Stefano Piazza. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Senti, so che hai seguito dal vivo Italia-Brasile e quindi al di là di tutte le valutazioni e gli esami tecnici che abbiamo fatto, che faremo e ce ne saranno ancora, mi piacerebbe un tuo riscontro ambientale, un tuo riscontro di insomma quello che Beppe Viola chiamava l'ufficio facce, e cioè come che aria tira sotterraneamente in questo ambiente? L'impressione a pelle è di un'atmosfera davvero lugubre. I giocatori sono sfilati in zona mista dopo l'uscita dagli spogliatoi, dove ci sono in genere gli incontri con i giornalisti, e nella stragrande maggioranza dei casi hanno glissato e sono scivolati via distogliendo proprio lo sguardo con dei musi lunghissimi e degli umori peggio che pessimi. Io non ho visto Lippi poi ieri sera, ho visto Valentini, ho visto Antenotte dell'ufficio stampa, al solito gentilissimi ma sorrisi molto tirati. I giocatori, che invece evidentemente non sentono questo dovere di rappresentanza, non si sono nemmeno sforzati di sorridere. Addirittura Chiellini non è nemmeno passato dall'incontro con i giornalisti, è scappato direttamente sull'autobus. Iaquinta ha detto che loro riconoscono di aver commesso un errore dopo l'altro, ma non capiscono che errori possono aver commesso, quindi dovranno parlarne. Però se non lo capiscono loro, effettivamente in questo momento è grigia, secondo me. Diventa un pochino più difficile capirlo così a distanza. Un'altra questione che insomma, è assai più leggera. Si parla di è rimbalzata almeno qua in Italia la notizia di un possibile furto, e anche abbastanza cospicuo, nell'albergo del Brasile durante la partita contro l'Italia. Quello che è certo invece è che erano state altrettanto ripulite le camere degli egiziani dopo Egitto-Italia. Il fatto è che pare che i giocatori egiziani fossero, come dire, in giro per l'albergo in compagnia femminile, e si potrebbe andare avanti anche, ma sono momenti questi in cui bisogna stare attenti alle parole che si usano. E corrisponde? C'è qualcosa di vero? C'è qualcosa che risulta? Guarda, sì, ripeto, sono voci che stanno circolando con insistenza. Inizialmente sembrava a livello di battuta per entrambe le situazioni, non riesco a dartene la conferma al 100% perché non ho un riscontro pratico, però ne stanno parlando tutti, per cui non mi stupirebbe se fosse vero, insomma, anche riguardo il furto. Già 2 anni fa a Durban per i sorteggi avevano ripulito, insomma, se mi passi il termine, la stanza di Giroff, per esempio, quindi sì. Effettivamente, dove sanno forse di trovare qualcosa di più prezioso, si fanno meno scrupoli. Sì, e questo potrà sicuramente sarà un motivo di riflessione per gli organizzatori in vista del prossimo anno, perché ci raccontavi ieri che l'apparato di sicurezza funziona, ma evidentemente qualche maglia attraverso cui infilarsi c'è ancora. Grazie a Stefano Piazza per questo collegamento. Sigla. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. In collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52%, fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo, fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan. Prima della data, prima del ripasso di storia, due notizie di oggi. La prima riguarda le pesanti sanzioni che hanno riguardato Livorno e Brescia dopo lo spareggio dopo il ritorno ai playoff di sabato sera, che ha dato a Livorno la Serie A. 3 giornate di squalifica a Caracciolo del Brescia, 2 a Galante del Livorno, e poi altri 6 giocatori, 3 del Livorno e 3 del Brescia, squalificati per una giornata, più un'ammenda molto pesante di 20.000 euro al Livorno e di 6.000 euro al Brescia. Stamane è raggiunto l'accordo tra Arnautovic e l'Inter con un contratto quinquennale. anche se l'operazione, leggo, non è ancora completata, perché dipenderà dalle assicurazioni che il club nerazzurro avrà dopo l'infortunio al piede subito da Arnautovic, per il quale sono stati previsti 4-6 mesi di stop. Cioè l'accordo è fatto, ma è subordinato al recupero integrale, diciamo, da un punto di vista fisico di questo giocatore. Ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 giugno 1986. Allo stadio Azteca di Città del Messico, Argentina e Inghilterra si affrontano nei quarti di finale di Coppa del Mondo. È una sfida carica anche di significati extracalcistici, a 4 anni dal conflitto che aveva contrapposto i due paesi per il controllo delle isole Falkland. Il protagonista assoluto in campo è un Diego Armando Maradona in stato di grazia, autore nel giro di 5 minuti di 2 tra le più celebri reti nella storia dei mondiali. Il Pibe de Oro prima sblocca il risultato toccando beffardamente il pallone con la mano de Dios e poi consolida il vantaggio argentino al termine di uno slalom impressionante. A nulla serve la rete del 2-1, siglata a 10 minuti dal termine da Gary Lineker. L'Argentina vola in semifinale, dove affronterà la rivelazione Belgio, che ha superato la Spagna ai calci di rigore. Andiamo avanti con le notizie di mercato. Il procuratore di Ibrahimovic, Raiola, dice a Sky Sport 24 al 99.99%, che mi sembra una percentuale quest'anno già sentita, Ibrahimovic rimane all'Inter. Addio quindi all'ipotesi Real, Barcellona o Chelsea, è stato detto, è stato controdomandato al procuratore. Io non l'ho mai detto, siete voi che lo avete detto, o il signor Moratti, o il signor Mourinho, o il signor Branca, io no. La mia impressione è che se con questa gente la metti giù dura e dici sicuro che se ne vuole andare, guardi, quella sarebbe la porta, e questo ovviamente è il contratto che fa sì che siamo noi che facciamo il prezzo. Ho l'impressione che le arie le abbassino, così è a spanne. Mario, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno a lei, intanto complimenti sempre per la vostra trasmissione. Due domande secche. Uno, volevo sapere cosa ne pensa del debito d'onore dell'allenatore della federazione ai campioni del mondo, per il fatto che sono stati quasi per intero riconvocati tutti. E seconda domanda invece, cosa ne penserebbe di inserire qualche campione nell'Under 21 per presentare una nazionale più fresca e preparata? La ringrazio molto, buongiorno. Qualche campione nell'Under 21 non si può, perché se non è Under 21... I migliori dell'Under 21 giocano già nell'Under 21. Quest'anno l'unico disponibile è Santon, perché è stato portato in Sudafrica. Il resto sono peccati di riconoscenza che più o meno tutti hanno sempre commesso. Magari in questo caso Lippi ha un po' esagerato. Chiudiamo con Cristoforo, che è in linea da Novara. Buongiorno. Buongiorno, signor Galanzini. Volevo sapere cosa ne pensa lei della posizione in campo di Andrea Pirlo, che non è quella abituale che di solito usa nel Milan. Beh, insomma, la posizione in campo di Pirlo no, non è quella abituale nel Milan. Nel Milan gioca più arretrato e però anche nel Milan ogni tanto qualche adattamento lo deve avere. Lì sono sia lui che De Rossi devono sforzarsi di trovare una posizione che li renda conciliabili, cosa non semplicissima, cosa che è riuscita in certe partite, sia perché la loro condizione era migliore, sia perché gli avversari erano di levatura inferiore. Quando si gioca contro il Brasile, questo genere di equivoci, o comunque di meccanismi non perfettamente sincronizzati, indubbiamente costa più caro. Abbiamo chiuso anche per oggi, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Appuntamento domani al Giornale Radio.